1 marzo 2025, Alberto Airoldi, intervista condotta da Alberto Stracuzzi. Ti ricordi quando hai iniziato a partecipare alla Pantera e perché? Sì, io mi ricordo di aver iniziato a partecipare proprio dall'inizio alle assemblee in statale. Ricordo queste confusissime assemblee in cui si discuteva se votare, se votare. Credo siamo andati avanti per 2 giorni di seguito in statale prima di prendere delle decisioni, se unirci o meno a questo movimento che era partito da Palermo. E ricordo di aver preso parte anche all'attività delle commissioni che hanno iniziato a riunirsi proprio dalla statale, prima ancora di occupare scienze politiche. Questo era nel dicembre dell'89. E il perché? Perché vabbè, aderivo in pieno alle motivazioni del movimento. E quali erano le motivazioni della mobilitazione, per quanto ricordi? Allora, la motivazione scatenante era la legge Ruberti, una controriforma dell'università che portava secondo noi, a un ingresso dei privati in università, a una licealizzazione dell'università, cioè una semplificazione del percorso universitario, la sua riconduzione alle modalità delle scuole superiori, portava alla diversificazione dei livelli di laurea e agli atenei di serie A e di serie B. Tutte cose che in realtà poi effettivamente si sono realizzate. Questo era il motivo scatenante. Poi per militanti politici, quale ero io all'epoca, anche se magari all'acqua di rose, c'era anche l'idea che c'era una discontinuità. Dopo 10 anni di riflusso qualcosa si rimetteva in moto e quindi credo che poi nella realtà fosse questo a motivarmi di più nel E dov'è che mobilitarmi militavi ai tempi? in democrazia proletaria. Poco fa hai parlato del fatto che ricordi, come dire, un primo momento confuso in cui le assemblee dovevano decidere come gestirsi come assemblea, no? Come si vota, quanto si vota, eccetera, eccetera. L'hai appena accennato. Ricordi qualcosa in più dello svolgimento dell'occupazione? Quindi, come dire, c'erano sicuramente queste assemblee che almeno inizialmente si erano dovute porre la logica del come funzionare, però non ci furono solo assemblee, hai citato anche delle commissioni. Cioè, co cosa ricordi di come il movimento si era articolato e di quali iniziative prendeva? Sì, allora io mi ricordo che a un certo punto, dopo le vacanze di Natale, noi ci riunimmo a gennaio a Scienze Politiche e anche lì ci furono diverse assemblee per decidere rispetto all'occupazione, che venne fatta per gradi. Quindi inizialmente vennero, credo, occupate un paio di aule, il dipartimento di so istituto, all'epoca erano istituti, istituto di sociologia, Non presidenza, ma vorrei correggerti, queste. ho la sensazione che sociologia fosse l'unico dipartimento, Ah, mentre forse tutti gli altri erano erano istituti, studi istituti. storici, diritto internazionale. Credo che l'unico dipartimento, quindi con un direttore, la struttura da dipartimento, fosse sociologia, ma così erano. Quindi io adesso non ricordo esattamente quale fu l'ordine che ci portò verso l'occupazione completa, però sicuramente il primo passo furono le 2 aule 9 e 10, in una delle quali venne poi messo il bar autogestito, che venne chiamato Pertini's Bar perché era appena morto Pertini, mi ricordo. Tornando all'organizzazione, c'erano queste assemblee plenarie e poi c'era un'assemblea degli occupanti che si teneva tutte le sere, non mi ricordo se alle 18 o alle 18:30. Io facevo servizio civile e ricordo che uscivo dal servizio civile, venivo a Scienze Politiche e partecipavo all'assemblea degli occupanti. Poi, sempre dal punto di vista dell'organizzazione interna, avevamo le commissioni. Cioè l'assemblea plenaria aveva votato alcune commissioni, che erano dei gruppi di lavoro, non senza delle contestazioni interne, perché c'erano dei compagni che ritenevano che l'unico luogo deputato a decidere e anche a svolgere il lavoro fosse la plenaria, e quindi sollevavano il problema che le commissioni rischiavano di essere un ambito di prevaricazione sulla plenaria. Le commissioni, io adesso non me le ricordo tutte, però ricordo di aver fatto parte io della commissione didattica, e che c'era sicuramente una commissione stampa che si occupava del rapporto con i giornalisti, un paio di altre commissioni sicuramente c'erano. Qual era? Hai detto che c'era, hai accennato a un primo elemento di dibattito o di dialettica politica all'interno del movimento, ce ne sono stati tanti, ma uno di questi che pensava che le commissioni fossero, come dire, una combutta tra pochi dove alcuni prendevano decisioni sulla testa di molti, mentre invece tutto doveva passare dall'assemblea. Ricordi se c'erano una o più matrici politiche che sostenevano più il lavoro in commissione o più il lavoro? O più il lavoro Allora, di assemblea, sicuramente, diciamo. allora, qui durante l'occupazione ci sono stati vari passaggi interni che sono, credo, importanti. L'inizio dell'occupazione vede la partecipazione di soggetti politici molto diversi fra di loro. C'erano due partiti, che erano il Partito Comunista Italiano e Democrazia Proletaria, ovviamente le loro organizzazioni giovanili. C'era un'area legata all'autonomia, c'erano degli anarchici che fondamentalmente facevano parte di alcuni centri sociali, c'era un gruppo che si chiamava Società Civile, di stampo direi liberal-democratico, e forse anche qualcos'altro che non mi viene in mente. Quindi una grossa eterogeneità. Poi, col passare del tempo e col radicalizzarsi della lotta, alcuni si tolsero di mezzo. È il caso sicuramente della FIGC e sicuramente di Società Civile. Democrazia Proletaria, questo lo ricordo bene, ebbe una frattura interna, per cui alcuni compagni si tirarono in disparte e altri compagni invece continuarono nella lotta. Rispetto alla domanda che mi facevi, secondo me la critica alle commissioni veniva da compagni di area centri sociali, compagni anarchici, mentre gli altri, e devo dire tra parentesi che al di là dei gruppi più o meno organizzati, c'era una, credo, maggioranza di compagni che si erano avvicinati e forse non avevano neanche una militanza politica particolare, e quindi io credo che fra di loro prevalesse l'idea che fosse positivo il lavoro nelle commissioni. E le commissioni, però, anche questo è importante, dovevano riferire in assemblea e i loro documenti venivano votati dalla plenaria, quindi io non ho mai visto nessuna prevaricazione delle commissioni sull'assemblea plenaria. E tu facevi parte, hai detto, della commissione didattica. Cosa si occupava la commissione didattica? La commissione didattica doveva fare una ricognizione di come funzionava scienze politiche dal punto di vista della trasmissione del sapere. Quindi una critica, cioè cercare di fare una critica anzitutto a come venivano tenuti i corsi, al tipo di corsi, come venivano tenuti dai docenti, i manuali che venivano utilizzati, i libri di testo che venivano utilizzati e anche le modalità d'esame. Quindi era un tentativo molto impegnativo di proprio critica del sistema universitario, in cui anche lì emergevano posizioni magari un po' diverse, c'erano posizioni forse un po' più ingenue che partivano dall'esperienza personale, dai problemi che i compagni avevano avuto nello studiare e nel dare l'esame, e c'era un tentativo invece di fare una critica più strutturata di tipo marxista all'ideologia che veniva impartita, veniva trasmessa con quel tipo di didattica. Possiamo dire quindi che, senza parlare di eventi specifici che avvengono dopo la chiusura del movimento della Pantera, in realtà la commissione didattica è stata ante litteram la nonna o la zia di quell'esperienza che poi ha visto il collettivo realizzare la controguida da un lato e i banchetti di orientamento delle matricole dall'altro, dove in realtà non c'era soltanto un ruolo di arruolamento, ma anche di, non so, consiglio di testi alternativi, di maniera alternativa dello studio, dire, come dire, soprattutto nella controguida si diceva, si insegna l'economia politica come se fosse qualcosa specifico esattamente come la fisica, la chimica, no? C'è un'equazione, c'è un teorema, non si può contestare. In realtà portavamo tutta una serie di contestazioni. C'è, secondo te, stato un fil rouge tra l'esperienza della commissione didattica, al netto che per esempio tu hai fatto parte di quell'esperienza e poi eri nel collettivo, e quindi è stato un proseguire quel lavoro, oppure in realtà era un tema che era talmente rilevante per gli studenti e per i compagni all'interno del movimento che poi, quindi, ha trovato un suo sbocco diverso, ecco. No, no, no, sicuramente è stato uno dei temi portanti e anche una delle linee di intervento. Poi io mi ricordo che ci furono anche lì diversi dibattiti perché c'erano compagni che inizialmente vedevano con diffidenza questo tipo di iniziativa perché ritenevano fosse troppo poco politica e che le tematiche che dovevano essere portate anche successivamente dal collettivo dovevano essere tematiche relative alla politica internazionale, al lavoro, e che si rischiasse invece di fare del sindacalismo studentesco. L'impostazione che noi abbiamo sempre cercato di dare non era quella del sindacalismo studentesco, no? E cercava di essere una critica approfondita, però io non ho mai disdegnato il terreno del sindacalismo studentesco e ricordo che era anche uno dei terreni che ci permetteva maggior superficie di contatto con studenti meno politicizzati. Insomma, alle iniziative che abbiamo fatto di contestazione, poi successivamente di alcuni docenti, di alcune modalità di esame, partecipavano veramente tanti studenti. E tutto quello che hai raccontato finora è molto concentrato su quello che facevamo, no? All'interno di scienze politiche. Vorrei che tu toccassi due temi: il rapporto con altre facoltà a Milano e in Italia e il movimento, come dire, l'occupazione della facoltà di scienze politiche come parte del movimento della Pantera. Poi ebbe un risvolto di carattere poi cittadino, cioè non c'era soltanto la relazione, non era soltanto un'operazione tra studenti, no? Come tutti i movimenti ha cercato contatti con altri, quindi ricordi, non so, manifestazioni, eventi particolari a cui scienze politiche ha contribuito naturalmente. E oppure, secondo capitolo, qual era il rapporto con le altre università e le altre facoltà a Milano e in Italia? Allora, rapporto con le altre facoltà. In Italia si arrivò ad avere più di 100 facoltà occupate in contemporanea. Fu veramente un movimento grosso e fu l'ultimo movimento universitario di una certa portata. A Milano io ricordo in particolare l'occupazione di architettura e di Brera. Però anche, ovviamente, in statale venne occupata solo l'Aula Magna, ci furono a Città Studi alcune occupazioni a veterinaria e a medicina. E noi cercavamo di coordinarci un po' con tutti i compagni delle altre occupazioni. A livello nazionale ci si coordinava attraverso questo strumento tecnologico altamente innovativo che era il fax. E quindi noi avevamo costantemente rapporti, soprattutto attraverso la commissione stampa, insediatasi in presidenza, che utilizzava il fax per comunicare con gli altri atenei. Diciamo vi furono due assemblee nazionali, mi ricordo, una a Palermo e una a Firenze. A quella di Palermo noi mandammo dei delegati, anche qui con dibattiti sul valore della delega e sui limiti della delega. E l'assemblea di Palermo fu quella che si svolse, non dico all'inizio, però in una fase di maturità del movimento. E l'assemblea di Firenze fu invece al tramonto del movimento, molto contestata perché egemonizzata da forze più moderate. E noi non mandammo, mi ricordo, dei delegati, ma solo degli osservatori, senza diritto di voto. Invece, rispetto alla città, anche lì è interessante perché noi cercammo vari tipi di aperture. Io mi ricordo sicuramente, come una cosa molto nuova all'epoca, la solidarietà con Cascina Rosa, che fu un'occupazione, una delle prime occupazioni di immigrati. Che erano sotto sgombero da parte insomma, il comune aveva chiesto lo sgombero perché era proprietario della cascina e noi solidarizzammo con gli immigrati non solo facendo dei presidi, ma anche organizzando una extra festa all'interno di Scienze Politiche una sera. Poi un altro episodio di solidarietà che mi ricordo, questo con un altro Ateneo, con l'Ateneo di Bari. Dove ci fu un'eruzione di fascisti cellini che picchiarono anche una ragazza disabile, e noi partimmo con un'azione abbastanza suicida di presidio davanti alla prefettura, bloccando la strada della prefettura. E ricordo insomma che ci eravamo infilati in un cul-de-sac, ricordo di aver temuto di prendere tante botte perché a un certo punto la polizia ci aveva chiuso proprio lì davanti alla prefettura. Seconda iniziativa di solidarietà con i compagni di Bari fu murare la CUSL, la libreria dei Cellini, all'interno della facoltà e fu un'iniziativa molto divertente e molto liberatoria perché CL aveva imperversato per tutti gli anni 80 in università, in particolare in Lombardia, ma non solo, e ci dava proprio l'idea che stavamo gestendo noi l'università. Avevamo occupato, la gestivamo noi e ci liberavamo di tutta questa feccia che ci avevamo ammorbati. Purtroppo il futuro non avrà confermato questa cosa, ma furono momenti molto liberatori. Ricordi altri, scusa, No, no, sì. ricordi altri episodi, significativi? Me ne ricordo uno in particolare che mi è rimasto molto impresso e che passò alla storia come, o alla cronaca, come il caso Dodo Torchia. Io facevo il servizio civile in quel periodo e quindi spesso, quando potevo, tornavo a casa a farmi una doccia, insomma, a riposare un attimo. Mi ricordo di essere tornato in facoltà un sabato mattina, abbastanza presto, e gran parte dei compagni stavano dormendo. Io mi misi a fare un giro di perlustrazione perché anche questo noi facevamo gestendo l'università, la facoltà, e mi accorsi che c'era una conferenza stampa congiunta di CL, Giovani Liberali e Giovani Socialisti, ovviamente diceva tutta una serie di falsità contro gli occupanti che sarebbero stati violenti, prevaricatori, eccetera, eccetera, eccetera. Andai a avvisare un po' di compagni e di compagne, andammo alla conferenza stampa chiedendo di intervenire. Gli organizzatori non volevano farci intervenire, i giornalisti invece sì, quindi bastò un intervento mi ricordo, di una compagna molto brava, Susanna, che egemonizzò la conferenza stampa per, credo, un quarto d'ora, 20 minuti, e praticamente rubò la scena agli organizzatori. A quel punto i giornalisti se ne andarono, e E nell'uscita il segretario dei giovani socialisti universitari, questo Dodo Torchia, rischiò di essere aggredito da alcuni occupanti. Ricordo di essermi messo personalmente in mezzo per evitare l'aggressione e il Dodo Torchia se ne andò tranquillamente dall'università. E di questa cosa tu ti vergogni da 30 anni, sostanzialmente. Questo fu un grande insegnamento perché alla sera, al TG2 delle 20, la prima notizia fu l'incontro Reagan-Gorbaciov e la seconda notizia fu la vile e selvaggia aggressione di un giovane socialista, Dodo Torchia, a Scienze Politiche. Capì che forse non valeva la pena fare le truppe di interposizione perché poi. E capì anche che fino a che punto i mezzi di informazione di massa disinformavano e mentivano. Senti, ma cos'hai fatto tu? Cioè, a un certo punto l'occupazione si chiude come? E tu cosa fai in quel frangente e cosa fai dopo? Allora, l'occupazione si chiude perché era finito il movimento a livello nazionale. Noi siamo stati, credo, tra gli ultimi a chiudere. E però non c'era più la possibilità di andare avanti. Noi negoziammo con il preside Martinelli un'agibilità politica, quindi una sede, una fotocopiatrice, un telefono, un fax, insomma degli strumenti di comunicazione. L'idea era facciamo un passo indietro, tanto prima o poi il movimento riprende e da qui ripartiremo più forti. Anche qui non è andata esattamente così, però questa era la nostra idea e quindi abbiamo tirato i remi in barca e abbiamo iniziato a riunirci e a fare attività politica chiamandoci Movimento degli Studenti. Infatti nell'archivio si trovano diversi documenti firmati Movimento degli Studenti. Questo andò avanti, credo, fino a settembre-ottobre del 90, quando capimmo che il movimento era belle che finito e non avrebbe ripreso a livello nazionale, e decidemmo di costruire un collettivo che si chiamò da subito Collettivo Politico Universitario e che teneva insieme diverse anime molto, molto diverse politicamente, dall'autonomia agli anarchici, alla democrazia proletaria. Una convivenza non facile che portò in seguito anche a diverse scissioni, ma che tutto sommato fu la caratteristica di questo collettivo per diversi anni. Fino, Per quanti anni hai fatto parte del collettivo politico universitario? sicuramente fino alla laurea, a fine 92, ma poi, visto che provai a fare il dottorato e visto che avevo un lavoro precario lì in zona centrale, collaborai col collettivo fino a credo metà del 94. E ricordi qualcosa in particolare che il collettivo ha fatto, mobilitazioni piuttosto che iniziative che fossero in coerenza o addirittura in discontinuità col movimento degli studenti. Sì, la prima grossa iniziativa fu l'anno dopo, quando scoppiò la guerra del Golfo. Occupammo l'Aula 1, non ci fu un movimento nazionale di occupazione esteso, però ci furono ovviamente alcune facoltà a livello nazionale occupate e noi nell'Aula 1 gestimmo per, credo, un mese una sorta di centro di controinformazione e di dibattito sulla guerra. Un momento di discontinuità lo ricordo rispetto a Leoncavallo. Leoncavallo era una presenza importante a Milano e in occupazione. E devo dire che in generale il movimento dei centri sociali beneficiò del movimento della Pantera e lo stesso movimento della Pantera beneficiò del movimento dei centri sociali. Quindi il rapporto era abbastanza stretto. La rottura politica avvenne perché in una in uno dei passaggi di mobilitazione, di manifestazione contro la guerra, il Leoncavallo decise che non era più il caso di continuare, non c'erano più le condizioni, mentre noi decidemmo di proporre una manifestazione cittadina insieme ad altri centri sociali, credo il Garibaldi, Conchetta, insomma, che non erano d'accordo con il Leoncavallo, e fu un'iniziativa peraltro riuscita. Quindi fu oceanica quella manifestazione, sì, veramente, ed era alla testa, aveva i collettivi universitari, collettivi, esatto, studenteschi in generale, che avevano la testa del corteo, che è quella che poi arrivò a Piazza Novelli, giusto? Esatto. E poi ricordo diverse iniziative di contestazione di docenti, in particolare due. Una del E la racconto un po' più dettagliatamente perché è emblematica di come noi organizzavamo le cose. Noi comunicavamo molto, avevamo volantini, tazebao, c'era una bacheca perennemente riempita dai nostri tazebao, e da un certo punto in poi anche una rivista teorica che era Il Buio. Noi avevamo deciso di contestare il salto d'appello che era stato introdotto in alcuni esami. E spiega a chi non sa cos'è un salto d'appello. Il salto d'appello vuol dire che mentre prima si poteva ripetere un esame a cui si era stati bocciati o il cui voto si era rifiutato il mese dopo, era stato introdotto una pausa di un mese, in taluni casi anche più di un mese, tra un appello e l'altro. Quindi noi decidemmo di andare alla registrazione dei voti dell'esame scritto di sociologia. Noi peraltro contestavamo la forma scritta della gran parte degli esami, sicuramente di sociologia, e il professore era Guido Baglioni, che era preside a Trento durante il 68. Prima di arrivare a questa giornata di contestazione avevamo riempito la facoltà di fotografie tratte da un dossier sul 68 fatto da Panorama, in cui si riproduceva una lavagna di Trento del 68 in cui era stato scritto con la falce e col martello a Baglioni via l'uccello. Tanto per dire, no? E se poi alza le spalle gli tagliamo anche le palle. E poi ovviamente tazebao che contestavano Baglioni, non solo il salto d'appello ma anche il suo modo di fare didattica, il suo manuale, eccetera eccetera. E quando arrivammo a contestare, Baglioni si prese una gran fifa e scappò sulle scale del Dipartimento di Sociologia con noi dietro, e si rifugiò in qualche ufficio, no? Poi ci venne raccontato da una compagna che lavorava nel dipartimento che Baglioni era spaventatissimo, e lei dovette dirgli: tranquillo professore, che non sta tornando al 68. Ecco, tanto per dire come ci muovevamo. Poi questa cosa l'abbiamo ripetuta con tanti altri docenti anche successivamente. Senti, ma che bilancio hai tratto di tutto questo? Allora, di tutta questa esperienza tua, esperienza giovanile? Che sì, allora, il bilancio della Pantera è estremamente positivo a livello personale. Cioè, io ho imparato molto di più del far politica dall'occupazione della Pantera che sia dalla facoltà di scienze politiche in cui studiavo, un sapere molto non solo astratto ma veramente avulso dalla realtà, e anche dalla militanza in Democrazia Proletaria. Ovviamente poi il bilancio del movimento in sé non è stato positivo, nel senso che noi siamo stati un movimento molto effimero, anche se poi però credo che abbiamo sedimentato un nucleo importante di compagni che hanno preso parte a pieno titolo al movimento milanese, e sono stati anche riconosciuti da altri soggetti politici e identificati proprio come i compagni di scienze politiche, che avevano una loro identità e con i quali bisognava fare i conti, ecco. Ed erano, ripeto, spesso compagni che si erano politicizzati durante l'occupazione. Quindi positiva sicuramente da questo punto di vista. Forse anche lungimirante, perché poi l'analisi che facevamo e che si può trovare anche sul buio, sulle controguide, è stata confermata negli anni successivi da ulteriori controriforme dell'università, e positivo anche il collettivo. Cioè, comunque positivo dal punto di vista politico, perché ci ha messo di fronte alla necessità. Come l'occupazione ci aveva messi di fronte alla necessità di gestire in prima persona una facoltà occupata e quindi risolvere una marea di problemi pratici e anche teorici e politici che ti si presentano, lo stesso collettivo, anche in un ambiente più ristretto, gestire le dinamiche, anche le dinamiche interpersonali e ovviamente poi anche dal lato umano, perché poi gran parte dei rapporti politici che si sono instaurati erano inevitabilmente, data l'età, dei rapporti umani che si sono poi mantenuti anche nel corso degli anni. Vuoi aggiungere qualcosa che non abbiamo toccato? No, mi sembra che abbiamo esaurito l'argomento. Ah, no, un'ultima considerazione. Forse così di bilancio conclusivo. Noi, e l'ho accennato, ci credevamo all'inizio di un nuovo ciclo di lotte. Avevamo forse quest'idea sbagliata, ingenua e ciclica della storia, per cui il capitalismo genera delle crisi, le crisi danno vita a dei cicli di lotta. E tra l'altro, cerchiamo di approfondire anche l'argomento dal punto di vista teorico, successivamente con dei gruppi di studio, no? Il gruppo di studio sul capitale, su Grossman, quindi cercare di capire dal punto di vista della struttura, della dinamica, dell'economia, come questi movimenti possano poi avere una ripercussione sulla mobilitazione politica e sulle lotte. Viceversa. Così non fu, noi fummo alla fine di un ciclo di lotta, però ci provammo, ripeto, anche lì un po' ingenuamente, come ci provarono nel 68, nel 67 e 68, cioè cercando di uscire dall'università, e quindi istituimmo una commissione lavoro all'interno del CPU e cerchiamo di fare dei gruppi di lavoro e anche delle iniziative in comune con gli operai che all'epoca si mobilitavano. Mi ricordo per esempio i Cobas dell'Alfa, ma non solo loro. Ok.